Joe Walsh, all'Early Bird Special, la trasmissione che vi accompagna durante le prime fasi del risveglio, dal primo caffè alla doccia. E ragazzi, andateci piano col deodorante, perché la cosa potrebbe esservi fatale. Pare che un sedicenne inglese, ossessionato dall'idea di dover puzzare, si sia profumato al punto di morire. Il medico legale ha infatti rilevato che il ragazzo è stato colpito da infarto causato dalla dose letale di propano e butano, cioè i componenti che rendono spray il deodorante. Una dose superiore di una decina di volte il tasso massimo sopportabile dall'organismo umano, dose che si era formata per le pesanti spruzzate di deodorante in corso da mesi. Beh, perlomeno ha lasciato un cadavere che emanava un buon odore, no? Battuta greve? Allora vi chiedo perdono. Pardon me, Incubus. Pardon me while I burst. Oh no. Oh no, no. Oh no, no, no, no. A decade ago, I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me. But I guess that it comes with the territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, that I have had all I can take, and exploding seems like a definite possibility to me. So pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. But 2 days ago I was having a look in a book, and I saw a picture of a guy fried up above his knee. I said, I can relate, 'cause lately I've been thinking of domestication as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, for gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3D. But thinking so much differently. Pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. Never be the same. L'Early Bird Special. Oh, questa mattina ho proprio voglia di parlarvi dei Doors, la band di Jim Morrison, un gruppo che i nostri ascoltatori amano particolarmente. Ebbene, io questa mattina ne voglio parlare male. Anzi, ne parlerò male attraverso la voce di grandi artisti contemporanei ai Doors che proprio non digerivano le gesta del re Lucertola. Iniziamo con Lou Reed, che durante un'intervista rilasciata ad un'importante rivista inglese dichiarò candidamente: «Non avevo neppure una briciola di rispetto per lui e non mi sono per nulla dispiaciuto quando mi diedero la notizia della sua morte. Anzi, ero insieme a degli amici a New York e quando giunse la notizia io gli esclamai: "Che figata, in una vasca da bagno a Parigi! Fantastico!" Non ho nessuna compassione per questa antipatica persona di Los Angeles. Era così ottuso. Non le mandava certo a dire Lou Reed. Ma Lou Reed non era il solo a non sopportare Jim Morrison. Fred Sonic Smith del gruppo di Detroit MC5 una volta disse a Iggy Pop, parlando dei Doors: "Dio, come odio quelle fighette." Anche Janis Joplin, della quale Jim Morrison cantò la figura nel poema The Wasp, definendola "The Maiden with a Raw Iron Soul", cioè la vergine con l'anima di crudo metallo, non è che ci andasse proprio matta per il cantante dei Doors. Un giorno litigarono al punto che Jim gli tirò con forza i capelli fino a farla piangere. Dopodiché lei, dopo essere andata in bagno, tornò con in mano una bottiglia di Southern Comfort, cercando disperatamente di speccargli il cranio. E siccome abbiamo parlato a lungo dei Doors, seppure male, è naturale che mi venisse voglia di ascoltare una loro bella canzone. Come on baby, light my fire. E se ci fosse Lou Reed, scommetto direbbe: sì sì, damogli fuoco. The Doors, all'Early Bird Special. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, "Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire." Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Early Bird Special, anche per questo lunedì ce l'abbiamo fatta, è stata durissima, ve lo garantisco, ma grazie alla grande musica che ho ascoltato e che avete ascoltato, e grazie alle tazze di caffè nero bollente che la dolcissima Cherie mi ha fornito a profusione, ce l'ho fatta. Ragazzi, vi aspetto domani mattina, sempre dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Rock FM, con una nuova puntata di Hurley Bear Special. Buon ascolto e buon divertimento con i rimanenti programmi da Rock FM. Aloha!